Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentornati a Salva Danaio, ben ritrovati. Allora, rieccoci al nostro appuntamento settimanale. Noi tentiamo di sfuggire, tentiamo di non farlo più settimanale, ma le novità ci inseguono, per cui siamo costretti, ma lo facciamo sicuramente volentieri, ad aggiornare tutti i nostri ascoltatori sulle novità che riguardano l'ambito mutui. Sarebbero infatti un po' più vicini i rimborsi per chi ha un mutuo a tasso variabile. C'è una circolare del Ministero dell'Economia che è stata varata poco fa, due giorni fa esattamente, e che avevamo già straannunciato proprio da questi stessi microfoni, che ha chiarito alcuni dubbi sulla famosa applicazione del tetto al 4% appunto stabilito dalle misure anticrisi. Le agevolazioni si estendono anche ai prodotti a rata costante e ai mutuatari in ritardo nei pagamenti delle rate, quindi precisazioni molto importanti, ma per la definitiva applicazione di questo risparmio, di questa misura di sostegno, chiamiamola come vogliamo, adesso aspettiamo ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Prima o poi, insomma, chi ne ha diritto sicuramente entrerà in possesso, si vedrà appunto accreditare nel conto corrente delle somme che a loro sono spettanti, ma intanto ancora qualche dubbio da chiarire rimane, anche se qualche strada sul chiarimento viene costantemente fatta. Allora oggi ritorniamo sull'argomento con la nostra coppia di ospiti preferita quando di questo tema parliamo, Roberto Aneda, direttore marketing Mutui Online, bentornato. Grazie e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. E naturalmente Maximilian Cellino, il Sole 24 Ore Plus 24. Buongiorno. Ciao Maximilian. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Prima di inoltrarci in questo terreno, che sicuramente sarà molto ricco questa mattina grazie anche ai vostri contributi e alle vostre domande, volevo ricordarvi un'altra cosa che non c'entra con i mutui, ma noi domani mattina a Soldi e Dintorni alle 8:15 ci occupiamo di un altro argomento che non riguarda appunto i finanziamenti e il settore bancario. Parleremo di negozi aperti la domenica, sì o no? A me piacerebbe sapere anche la vostra considerazione su questo argomento. Se ce la scrivete al 349 238 6666, domani mattina ne discuteremo con i nostri ospiti. Quindi aiutatemi ad alimentare il dibattito anche su questo argomento. È, come dire, una discussione apertissima per rilanciare i consumi. Dobbiamo passare anche attraverso questa strada, ma ovviamente le associazioni di categoria non ci stanno, mentre è una strada che dovrebbe essere assolutamente intrapresa da parte dei consumatori. Per cui, se volete, scrivetemi anche su questo, ma potete utilizzare il numero per gli SMS anche per il tema di questa mattina, cioè mutui e il risparmio, l'applicazione del tetto del 4% fissato dal Ministero dell'Economia. Borse indecise questa mattina, in realtà il quadro permane debole come è stato per tutta la settimana. Dopo un avvio positivo scivola Parigi dello 0,20%, rimane ancora positiva Londra, più 0,3, si sta portando sulla parità Francoforte, per cui anche la piazza tedesca si sta indebolendo, mentre da stamattina Milano è la peggior piazza d'Europa, sta peggiorando in continuazione, adesso Milano sta perdendo un punto secco sull'S&P MIB, colpa di Mediaset che perde 6,5 punti in questo momento. Buzzi Unice meno 4, Seat meno 4, Snam Rete Gas meno 3, Fiat meno 3, sì Roberto, proprio un bollettino di guerra anche stamattina, non ce lo facciamo mancare ormai da 2 anni a questa parte. Caso del giorno è stato ancora una volta Unicredit, perché? Solo perché stamattina ha toccato al ribasso un tetto fisiologico, insomma, che si sperava non toccasse, invece è andato a toccare l'euro nominale, il suo minimo storico assoluto. Un anno e mezzo fa il titolo valeva qualcosa come 5 euro, pensate che cosa ha fatto da un anno e mezzo a questa parte, anzi sì, ha toccato i 7, ormai Roberto viene a fare la borsa come da quest'altra parte. E comunque anche oggi, insomma, giornata precaria assolutamente per i titoli del comparto bancario, non per tutti perché ce n'è qualcuno che va bene. UbiBanca più 0,26%, stamattina faceva più 5%, il gruppo ha fatto sapere che ha praticamente azzerato tutte le sue posizioni a rischio, per cui su questa circostanza il mercato sta premiando il titolo da qualche giorno. Il migliore Parmalat più 2,55%, Geox più 1,92%, Generali più 1,47%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina, anche se in realtà un po' rimaniamo anche sull'attualità, perché negli Stati Uniti il presidente Obama ha varato questo maxi piano non tanto quello di sostegno all'economia, che è molto ampio. C'è un piano mutui da 275 miliardi, di questi 75 andranno proprio a sostenere le famiglie che hanno un mutuo, e praticamente sarà proprio un sostegno economico concreto che porterà le rate del mutuo delle famiglie che ancora lo stanno pagando e che non si sono viste pignorare la casa ad una misura non superiore del 30% del reddito lordo. Tra l'altro, Roberto Nedda, quella che dovrebbe essere un po' la misura della rata pagata da tutti noi, qualcuno invece è sfuggito un po' di mano la situazione negli ultimi anni. Sì, ma questo è un'ulteriore riprova di come il mercato mutui in America negli anni si sia sviluppato su direttrici ben diverse da quelle sulle quali fortunatamente si è basato in Europa e in particolare in Italia. Noi da sempre abbiamo parlato di questo rapporto rata-reddito di concessione del mutuo intorno al 30%, ovviamente in caso di tassi variabili e tassi che salgono anche in Italia molti si sono trovati con un rata-reddito che era aumentato, ma in America invece questo vincolo non veniva posto neanche nella fase iniziale di concessione del mutuo, anzi tutta la grossa bolla dei mutui subprime era anche dovuta al fatto che non c'era alcun criterio di salvaguardia o della banca stessa, cioè si puntava unicamente a finanziare quanto più possibile e quante più persone possibile, fino a che il giocattolo si è rotto. Quindi una volta di più si capisce come determinati criteri di prudenza o semplicemente di razionalità applicati dalle banche in Italia, per quanto a volte criticati, alla fine abbiano salvaguardato il sistema e le famiglie stesse. Andiamo però alla novità del giorno, quella di cui vogliamo parlare oggi, e quindi la situazione delle famiglie italiane che non hanno negli ultimi mesi, anche se poi in realtà la misura del governo riguarda anche loro, rinegoziato il mutuo, che non hanno sostituito, che non l'hanno trasformato a tasso fisso. Insomma, tutta quella partita di famiglie italiane che ancora stanno pagando il mutuo, l'hanno mantenuto a tasso variabile, ma che potrebbero godere di questo risparmio che è stato previsto appunto dalla normativa Tremonti, questo famoso tetto del 4%. C'è qualche novità, qualche precisazione arrivata due giorni fa con una circolare del Ministero dell'Economia. Sentiamo che cosa ha detto. Buone notizie per i mutuatari a tasso variabile che hanno sottoscritto un mutuo per l'acquisto della prima casa entro il 31 ottobre 2008. Si allarga infatti la platea di quanti potranno beneficiare del cosiddetto tetto del 4% e si avvicinano i rimborsi. La circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze contiene nuovi chiarimenti in grado di sciogliere alcuni dubbi sollevati sia dalle banche che dagli stessi clienti sul testo del decreto anticrisi. Innanzitutto, la circolare stabilisce che anche i prestiti a rata costante con tasso e durata variabile avranno diritto all'agevolazione. In questo caso, essendo la rata fissa, l'effetto del tetto si tradurrà in una minor durata del mutuo. Potranno godere dell'agevolazione inoltre i mutui rinegoziati e quelli che hanno usufruito della portabilità di Bersani. In questo caso il tasso da considerare non è quello iniziale, ma quello successivo all'operazione di surroga o rinegoziazione. Buone notizie anche per chi è in ritardo con i pagamenti. Il tetto del 4% si può infatti applicare anche ai mutuatari indietro con i versamenti della rata, a meno che non sia intervenuta, prima o nel corso del 2009, la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto del mutuo stesso. Restano dubbi invece sui mutui a tasso misto, quelli che di volta in volta lasciano l'opzione se scegliere il tasso fisso o il variabile. Un'ipotesi è che vengano compresi nel tetto quelli che al momento risultino variabili. Un altro tassello manca ora alla chiusura del puzzle. L'Agenzia delle Entrate deve fornire la lista dei contribuenti in possesso di un mutuo per l'abitazione principale, in modo che le banche possano procedere all'erogazione del bonus. Continua intanto la picchiata dei tassi di interesse, che ha portato l'Euribor a tre mesi sotto la soglia del 2%, ai livelli più bassi dall'introduzione dell'euro. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, e non vi posso dire cosa sta accadendo già al nostro centralino, tanto quando pronunciamo la parola mutuo non si sa bene magari che tipo di così declinazione vogliamo dare all'argomento, ma tanto basta per far scattare appunto l'interesse da parte, per fortuna, dei nostri ascoltatori, che non mancano mai di contribuire ad arricchire molto il nostro dibattito. Allora, Maximilian, sei tu che hai scritto di questa circolare del Ministero dell'Economia, che avevamo già preannunciato anche la settimana scorsa, perché non c'è solamente la misura dell'Agenzia delle Entrate che deve chiarire l'orientamento delle banche sull'applicazione del tetto del 4%, è arrivata anche appunto la precisazione informazioni del Ministero dell'Economia, speriamo che adesso anche l'Agenzia delle Entrate si sbrighi in modo tale che possano subito partire con questi rimborsi le banche. Rimborsi, lo voglio chiarire subito perché vedo che è già un aspetto non chiaro, ma sul quale un po' le banche stanno anche giocando. Deve essere rimborsato, un rimborso che deve avvenire in automatico, quindi non c'è nessuna richiesta da fare. Sì, non c'è nessuna richiesta da fare e contemporaneamente all'addebito della rata, quelli che l'hanno avuto il 1 gennaio, chi l'ha avuto a metà gennaio, chi l'ha avuto il 1 febbraio, per tutto il 2009, i mutuatari che vanno diritto a questo sconto, questa integrazione, riceveranno un accredito con la stessa valuta, per cui anche se ci sono dei ritardi, questo ci teniamo a precisarlo, dovrebbero stare tranquilli, perché nel momento in cui si sbloccherà questa situazione, appunto con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che tu in precedenza indicavi, dovrebbe partire tutto l'iter e in pochi giorni una persona dovrebbe ritrovarsi un accredito alla stessa valuta della rata, di quando è stato versato la rata. Ecco, tra l'altro c'è un aspetto anche molto importante che forse nelle puntate precedenti non avevamo chiarito, non avevamo avuto modo di soffermarci su questo. C'è anche contemplato l'aiuto per chi è in ritardo nei pagamenti, un aiuto che era già previsto dalla vecchia convenzione Abitremonti, vecchia, a appena 9-10 mesi, applicata anche quella per chi avesse aderito a gennaio di quest'anno. Che cosa vuol dire anche questo aiuto per chi è in ritardo nei pagamenti, Maximilian? È molto importante, anche chi è rimasto indietro, non è riuscito a onorare una o più rate, aderirà lo stesso al tetto del 4%, nel senso che le nuove rate verranno calcolate a un tasso di interesse che probabilmente prenderà in esame il tasso di mora, perché se uno è indietro con le rate deve pagarci sopra il tasso di mora, però prenderà in esame quando è dovuto un tasso massimo variabile del 4%, con l'integrazione dello Stato. Allora, il più la mora, voglio ricordarlo. Sì, quella certo, non sperate appunto che la banca ve la... Però è importante, giustamente, se deve essere un aiuto ai mutuatari, perché non avere un aiuto a chi veramente ha avuto dei problemi e non è riuscito a pagare una rata? Però poi, come ti ricorderai, la settimana scorsa ci aveva chiamato un ascoltatore che in realtà è rimasto incagliato con alcune rate non pagate, ha chiesto di aderire alla convenzione Abitremonti per vedere risparmio, poi però per quello che è già incagliato effettivamente il problema rimane lì e deve essere risolto in un'altra maniera. Comunque, allora, un ascoltatore chiede subito, anche qui un altro aspetto che abbiamo ribadito 2000 volte, ma evidentemente vale la pena ritornarci, il tasso variabile del 4% è al netto dello spread, Roberto Anedda? No. Diciamo che bisogna intendersi di cosa vuol dire al netto, cioè il 4% è un tasso complessivo, quindi che comprende anche lo spread, quindi è una soglia della quale possono godere coloro i quali, quando hanno acceso il mutuo, sono partiti con un tasso, e quindi non parliamo però di un tasso di preammortamento, ma comunque di un tasso cosiddetto a regime, che era inferiore al 4%, sommando quindi l'Euribor utilizzato, 1, 3, 6 mesi, quello che fosse, più lo spread previsto. Una cosa ulteriore che andrebbe segnalata è che, per quanto le interpretazioni tuttora e le circolari non siano del tutto chiare, il 4% è l'unica soglia per la quale si può avere un intervento e un rimborso, perché a quanto pare, per quanto non si capisce perché poi i decreti legge e anche le varie circolari siano sempre scritti in maniera poco trasparente, poco chiara. Guarda, la giustificazione può essere solo questa, che hanno decretato talmente d'urgenza. Questo è vero, però stiamo comunque parlando di un decreto legge, poi di una legge che ormai è in vigore da 3 mesi. In 2 mesi avrebbero potuto, certo. Si sarebbe potuto essere più chiari ben prima, ma quello che voglio dire è che pare che tutti coloro che in origine avessero acceso un mutuo con un tasso che fosse superiore al 4% non usufruiranno di una protezione ad una soglia superiore al 4%, quindi equivalente, come noi stessi più volte abbiamo detto in questa trasmissione, ma proprio perché l'interpretazione corrente sembrava essere quella e nessuno l'ha mai smentita. Invece di recente, tra l'altro anche a un convegno tenutosi qui a Milano proprio sul tema mutui e di questo decreto legge, lo stesso rappresentante del governo che ha scritto la norma ha fatto presente che nella realtà loro intendevano dire che per tutti coloro che in origine avevano un tasso che partiva sopra il 4% non ci sarebbe nessuna soglia. Quindi non come fino adesso avevamo detto soglia del 4 per tutti coloro che avevano un tasso iniziale inferiore al 4, e per gli altri vale il tasso iniziale del mutuo, quindi 4,5, 4,3, 5, quello che è. No, o la soglia del 4 per i mutui sotto il 4 oppure nulla. Questo nei termini pratici che cosa comporta, Nedda? Comporta semplicemente che tutti coloro che magari si erano fatto il conto che, essendo partiti con un tasso appunto al 4,2, 4,3, 4,5, almeno per le prime rate di quest'anno avrebbero potuto avere qualche piccolo rimborso, sempre sulla base di quello che è poi il tasso calcolato sul parametro Euribor più spread di questo previsto dal mutuo stesso, e che invece non avranno diritto. Sono esclusi dalla partita. Quindi i famosi 300 milioni previsti nelle valutazioni tecniche del governo, ridotti poi ai 50 milioni effettivi di costo per il probabile calo dei tassi, erano in realtà calcolati non sul totale dei mutui a tasso variabile considerando queste diverse soglie, ma esclusivamente sui mutui a tasso variabile che al momento in cui erano stati erogati erano partiti un tasso sotto inferiore il 4%, che quindi purtroppo anche in quest'ultima circolare di teorico chiarimento non c'è stata un'esplicitazione di questa cosa, però ripeto, voce ufficiale da parte del rappresentante che ha scritto la norma in origine, quindi parliamo del decreto di fine novembre, ha proprio fatto presente questa cosa. Quindi sarebbe auspicabile che anche da questo punto di vista ci fosse come minimo una sollecitazione a essere più chiari, ma di per sé è un intervento. Mettiamola così, all'idea di un'ulteriore circolare del Ministero dell'Economia noi tremiamo, però in realtà sarebbe per questa situazione appunto auspicabile che invece venisse emessa, proprio per precisare anche questo aspetto, visto che all'interno degli uffici tecnici del governo stesso si è ammesso che non c'è stata una grande chiarezza su questo aspetto. Come anche per i tassinisti, perché ne parliamo da 3 mesi, non si capisce perché quando viene fuori una circolare di chiarimento non si faccia una circolare complessiva, ma si faccia un po' tutto a spizzichi e bocconi. Una cosa per volta. Bene, insomma, allora dobbiamo tagliare questa parte di Salvadanaio e inviarla direttamente al Ministero dell'Economia, quindi in via 20 settembre, per destare un po' più di attenzione su questi aspetti. Cominciamo con i nostri ascoltatori, allora, per chiarire chi ha diritto o no a questo rimborso, le modalità con cui questo verrà erogato, ma su questo ci siamo già andati. Alfonso dalla provincia di Ancona, che saluto, benvenuto. Sempre un freddo diabolico da quelle parti, Alfonso? Ma guardi, è Salerno, non è Ancona. Ma allora non capisco che cosa mi abbiano scritto, mi scusi Alfonso. Salerno, Alfonso da Salerno, e che ne so, vabbè, dai, lo stesso. Senta, le volevo dire, noi abbiamo, io e mia moglie nel 99 abbiamo stipulato un mutuo a tasso variabile con una banca per ristrutturazione di prima abitazione, e ultimamente poi, prima del ribasso dei tassi, siamo arrivati ad un tasso di un 6,56%. Quanto dura questo mutuo, Alfonso? E dunque dovrebbe terminare nel 2011. Quindi di 15 anni? Di 10 anni, no, dal 99, 12 anni. Dal 99 al 2000, all'inizio del 2011, sì, sono 12 anni. 12 anni di mutuo. Sì. Rate... Ma Alfonso, lei lo sta quasi terminando, non paga quasi, sì, più interessi? Ma non, quasi sì, perché siamo quasi agli sgoccioli, mancano 25 rate, rate ancora, quindi 12 e 12, 24, diciamo mancheranno sui 32-33 rate. Però volevo sapere se ci spetta agevolazione in merito a questa circolare. Allora Alfonso, intanto questo mutuo che è stato sottoscritto nel 99, in virtù di questo, del momento in cui è stata fatta la sottoscrizione... Allora, teoricamente... Sì, Maximilian, cominciamo. Alfonso è ancora in linea, visto che i dati li ha descritti benissimo, magari se si ricorda qual è il tasso iniziale. E qual è il tasso iniziale? Il tasso iniziale, le dico subito, è in 3,3-50%. Quindi sì. Qualche cosa in meno. È non tipicamente un caso in cui il tetto del governo viene applicato, quindi no, pensavo che lui volesse rinegoziarlo e si preoccupasse, però sì. Penso di sì, in base alle informazioni che ci ha dato direi di sì, almeno per le prime rate, poi vedrà che probabilmente già il calo delle Euribor, che oggi sono, non mi ricordo lei cosa aveva, ma quello a un mese oggi è 1,58, tanto per dire, quella a 6 mesi è 1,98, sommato allo spread le darà comunque un tasso inferiore al 4%. Per cui per Alfonso risposta affermativa. Tra l'altro possiamo anche ricordare, perché vale la pena farlo, soprattutto rivolgendo questo messaggio a chi invece adesso si sta sentendo invitato dalla banca a fare una richiesta esplicita di rimborso, quindi la banca chiede di inviare una richiesta direttamente a chi ha in corso appunto un rapporto di di mutuo, che c'è una banca che invece sta già erogando il rimborso. L'abbiamo già sentito anche da due ascoltatori che ce l'hanno direttamente raccontato la settimana scorsa, per cui poi la banca dice: noi intanto ti applichiamo il rimborso che ti spetta, dopodiché noi ce la vediamo con il Ministero dell'Economia, ING Direct. Roberto, sì, vuoi ricordarcelo anche In realtà volevo aggiungere un ulteriore commento ad Alfonso, risposta ad Alfonso, perché se il tasso iniziale che aveva era del 3,5, considerando che l'Euribor prima delle date di oggi non era mai sceso sotto il 2, dobbiamo presumere che bene o male avesse uno spread dell'1,5, quindi già, come diceva giustamente Max, in quel periodo con gli Euribor di adesso sarebbe probabilmente già dall'inizio dell'anno al di sotto della soglia del 4, quindi magari è possibile che non si veda riconoscere alcun rimborso, ma semplicemente per il fatto che già il suo tasso fortunatamente è sceso al di sotto della soglia del 4. O al limite, qualora dovesse arrivare, sarà una cifra estremamente contenuta, come il caso degli ascoltatori che ci hanno chiamato settimana scorsa. Loro hanno voluto banalmente segnalarci il fatto che la banca ha già provveduto ad erogare il rimborso, però parlavano effettivamente di 20-30 euro al mese. Erano comunque importi e rate contenute, magari per evidentemente importi più ampi di mutuo sottoscritto e durate molto più lunghe, è chiaro che il risparmio mensile invece è qualcosa di molto più interessante. Ritorniamo a Salva Danaio, ritorniamo sui mutui, l'applicazione del tetto del 4% stabilito dal Ministero dell'Economia. Ci sono state delle precisazioni formulate da una circolare proprio di Castero di Tremonti. Aspettiamo qualche altra precisazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, però insomma speriamo che nell'arco di un paio, quattro settimane, Maximilian, almeno a fine marzo, speriamo che qualcuno possa vedersi riaccreditato questo rimborso che gli spetta, se negli ultimi anni ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile entro la fine di ottobre 2008 e se pagava all'inizio un tasso inferiore al 4%. Quindi questi sono, come dire, i parametri dai quali non si scappa. Sì, dovrebbero essere questi. Poi vale la pena ricordare che vale soltanto per il 2009, per le rate, anzi, da versare nel 2009, indipendentemente dal periodo al quale si riferiscono. Quindi non è assolutamente perpetuo. In quanto ai tempi, l'Agenzia delle Entrate ci sta lavorando a questa trasmissione dei dati. Ricordiamo ancora una volta perché l'Agenzia delle Entrate è importante, perché l'Agenzia delle Entrate vede le nostre, le vostre dichiarazioni dei redditi, quelle del 2008, che hanno una situazione aggiornata al 31 dicembre 2007 sul patrimonio immobiliare. Loro sanno quali sono le prime abitazioni. Qualcuno chiede: ma non lo sanno anche le banche quando vi hanno fatto è un la mutuo? Domanda che abbiamo fatto settimana scorsa. Le banche lo sanno, però in teoria è anche vero che uno può aver acquistato una casa come prima abitazione e poi nel corso degli anni potrebbe essere cambiata la destinazione d'uso. E qui, e concludo, ci potrebbero essere ulteriori problemi per chi ha fatto delle operazioni nel 2008, perché l'Agenzia delle Entrate comprende, ha i dati in mano fino al 31 dicembre 2007, per questi, probabilmente soltanto per questi, sarà necessaria una sorta di autocertificazione. Ecco, quindi quando la banca magari chiederà di una richiesta esplicita da parte del cliente al riconoscimento dell'accredito di questo rimborso per il tasso superiore al 4%, in realtà non è una richiesta per ottenere rimborso, può essere che la banca ci chieda di autocertificare se siamo, come dire, rimasti titolari nella stessa maniera di quando abbiamo sottoscritto il mutuo della nostra abitazione, Maximilian. Quindi, forse anche per velocizzare la pratica, diamogli una volta il beneficio del dubbio alle banche, che non stanno cercando di fregarvi, ma forse stanno cercando di fare qualcosa prima dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate, non so però. Insomma, diamo anche questo assist al sistema bancario. Allora andiamo subito alle domande degli ascoltatori, se no li sto facendo così rimanere lì. Sì, cominciamo con Alessandro da Ancona. Lei è di Ancona, Alessandro, non è che di Salerno anche lei come Alfonso? No, sono di Senigallia. Eccolo là. Provincia di Ancona. E guardi, conosco benissimo quelle zone visto che sono nata là, quindi ci dica tutto, Alessandro. E volevo chiedere una cosa. Io ho stipulato un mutuo a tasso variabile il 17 giugno 2003 con un tasso di ingresso del 3,35. Sì. Per me era seconda casa e per mia moglie prima casa. Allora, siamo entrambi, lei ci vuole complicare la vita non poco, insomma. Ci ha messo tutto l'impegno. Siamo intestatari entrambi del mutuo. Sì. E dal 2 aprile 2008 per me è diventata prima casa e quindi detraggo gli interessi passivi. Mm. un caso un po' particolare. Direi, infatti vedo dei punti interrogativi, non solo ce li ho io in testa, li vedo anche, però insomma possiamo solamente darle delle ipotesi, perché come lei capisce qua la situazione è un po' complicata. Allora, teoricamente per la quota parte della moglie, se la situazione fosse rimasta inalterata, poteva ottenere lei ipoteticamente il rimborso? I punti interrogativi sono perché andiamo a interpretazione e siamo noi che stiamo interpretando probabilmente delle leggi che poi andranno interpretate da chi le applica. In realtà nella situazione di Alessandra attuale mi sembra che sia prima casa per entrambi. Adesso è prima casa per entrambi. Ecco, magari in questo caso sicuramente forse ad Alessandro chiederanno l'autocertificazione. Siccome è avvenuta nel 2008, Alessandro dovrà fare un'autocertificazione con una richiesta e sentire. Siccome il caso è un caso un po' particolare, ovviamente io non mi attendo che né i decreti legge né tantomeno le circolari ministeriali riescano a disciplinare tutti i casi, infatti. Questo è un caso molto particolare. Qui si può, secondo me ci sono margini per richiedere l'applicazione, dopodiché starà un po' a loro vedere come interpreteranno questa la norma. Perché Roberto, tra l'altro, non vorrei che avesse un'applicazione parziale la moglie perché era intestataria dell'abitazione come prima casa e poi ma che cambia? No. Allora, se era prima casa per la moglie, la sua quota dovrebbe comunque rientrare nel rimborso. Tra l'altro Alessandro parlava di un tasso di ingresso, quindi ripetiamo che quello che conta non è il tasso di ingresso, ma il tasso a regime. Cioè, un tasso di ingresso era quindi un tasso iniziale applicato, ma poi il tasso a regime cambiava, magari era più alto, bisognerà fatto vedere se quello certo. Era più alto o più basso. No, l'unica cosa su cui bisognerebbe verificare, ma certo non si può farlo qua in diretta, è sul fatto che Alessandro effettivamente, non per volergli togliere qualcosa, ma in generale come informazione, possa effettivamente aver diritto in generale alla detrazione degli interessi, perché se il mutuo è stato fatto nel 2003, quindi la casa è stata acquistata nel 2003, e per lui è diventata prima casa solo nel 2008, teoricamente per poter usufruire delle detrazioni la casa deve diventare prima casa entro un anno o un anno e mezzo, adesso non mi ricordo esattamente la data, dal momento in cui il mutuo viene fatto. Quindi teoricamente, se così stanno le cose, Alessandro non avrebbe neanche diritto la possibilità di fare una detrazione. In ogni caso la potrebbe fare l'anno prossimo, comunque, e quindi non la potrebbe fare neanche quest'anno. Esatto. Tra l'altro, e quindi varrebbe la pena verificarlo con un commercialista, però ecco, io di questa cosa sono abbastanza sicuro. Ma questa insomma è una questione che esula tra l'altro dalla questione di cui stiamo parlando questa mattina. Narciso da Milano ha ragione, la sto facendo aspettare dall'inizio della trasmissione, mi scusi tanto, eccoci. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, io nel 2005, alla fine del 2005 a dicembre, ho aperto un mutuo a tasso variabile. Sì. Nel 2008, a gennaio, sono riuscito a fermarlo, perché andava su, cioè pagavo all'inizio, pagavo 720, sono riuscito a fermarlo a 960 euro. Cioè, ha fatto il fisso Narciso, quindi lei a gennaio con i tassi al massimo che stavano già scendendo. Sì, con i tassi che c'erano allora nel gennaio 2008. E allora il mese scorso? Ah no, scusi, un anno fa. No, mi scusi, se io sono rimasto indietro. Fa. Sì, stiamo proprio esattamente un anno fa. Ha ragione Narciso, no? Sì. E per me siamo nel 2008 ancora. Adesso con la crisi che c'è, perché anche lo stipendio si è abbassato di 350 euro. Niente, io adesso vorrei chiedere se, visto che sono in ritardo di 15 giorni con la banca, sì, per il mutuo, riesco, cioè la banca mi riesce a venire incontro e darmi una mano in questo caso, oppure fermarlo un mese o due per riuscire a mettermi a posto per non essere in ritardo, perché pago in ritardo di 15 Narciso, giorni. Narciso, sì, abbiamo capito la sua situazione, mi faccia parlare. Lei intanto una chiacchierata col suo direttore di banca se l'è fatta per dirgli: guardi, io probabilmente mi troverò in difficoltà, quindi te lo dico già. Non perché questo poi possa giustificare o meno la sua situazione, però intanto la banca è avvisata e quantomeno si può già pianificare un intervento di sostegno e di aiuto a lei. O ha chiamato solo Salvadanaio? No, ho chiamato la banca un mese fa, cioè sono andato in banca un mese fa. Mi hanno detto: ma no, lei conviene che vada avanti così. Certo, se uno non ci arriva, grazie. È quella la risposta che mi hanno dato. Senta, mi dica qual è la banca, perché ci sono due grandi banche che hanno varato due grossi sostegni a chi non ce la fa a pagare, dando proprio l'opportunità di sospendere la rata. Questo quindi è un'informazione fondamentale. Me la dica, perché così le riusciamo a dire La Unicredit Banca. Ecco, appunto, Roberto Anedda. Sì, quindi appunto, già che lì non dicano che c'è la loro grande iniziativa, mi fa anche un po' arrabbiare. No, esatto, Unicredit è stata una delle prime che ha fatto presente che ai propri clienti che si fossero trovati in difficoltà anche momentanea avrebbero concesso delle altrettanto momentanee sospensioni dei pagamenti della rata, quindi varrebbe la pena che Narciso tornasse a parlare, ecco, in maniera più esplicita con il, soprattutto visto che si tratta di un lievissimo ritardo e già è riuscito in parte a fermare il tasso, quindi è una persona che non mi è fa impazzire questa che no, dimostra comunque di stare avanti. Attento, e grazie che mi conviene, certo, lo so, cioè, anch'io che mi conviene pagare la rata piuttosto che stare in ritardo, ma che risposta è anche questa? Io queste cose veramente non so, mi indigno un po', perché sì, no, purtroppo infatti anche rispetto alle dichiarazioni o alle, almeno di intenti di molte banche, poi quando si va nella singola filiale ogni tanto sembra che la filiale sia un po' scollegata, sì, sì, che stia su un altro pianeta, le politiche della banca, quindi soprattutto in questo caso vale la pena che Narciso, non dico punti piedi, però comunque torni a farsi sentire dal direttore, chieda conto di questa dichiarazione, iniziative proprio che fin dall'anno scorso Unicredit aveva preso, ed eventualmente poi adesso se dovessero anche continuare a nicchiare, chiedere anche l'assistenza delle associazioni dei consumatori. Infatti, che da questo Narciso, punto di se lei ha l'opportunità ci scriva una mail, perché io tra l'altro adesso non vorrei magari avergli dato un'indicazione sbagliata, bisogna anche ricostruire fino a quando Unicredit ha la possibilità di fare richiesta della sospensione, credo che per un anno ci sono, poi valesse. Ci sono anche dei limiti abbastanza stringenti di reddito. Io in questo momento non ricordo, sembra ricordare un 25.000 euro, ma potrei sbagliarmi. Sono dei limiti abbastanza stringenti che noi avevamo fatto notare in trasmissione, esattamente. Per questo però io volevo aggiungere una cosa, che la finanziaria, non questa ma quella precedente ancora del governo Prodi, aveva previsto un fondo di garanzia per chi si trovava in ritardo con la rata, che poteva sospendere, mi sembra, per 6 mesi o una cosa simile. Una cosa molto importante, un provvedimento molto importante, che purtroppo però è rimasto sempre lettera morta. È rimasta morta una promessa, vedi, perché, allora? Sì, esatto, perché mancano ancora dei decreti attuativi per dargli proprio, per renderlo effettivo. Poi, diciamo, si diceva che anche con quest'ultima finanziaria, anche col decreto anticrisi, che questo si dava ancora una spinta a questo fondo di garanzia, però al momento ancora non c'è niente. Questo sarebbe molto utile per le persone come l'ascoltatore, come Narciso, sì, no, che tra l'altro anche lì hanno fatto tante rinegoziazioni in automatico con un allungamento del piano di ammortamento. Voglio dire, io non credo che Narciso non si possa venire incontro in qualche maniera. Non è una persona che è in ritardo di 6 mesi, di un anno, è una persona che ha già allertato la banca della sua situazione. Santo cielo, diamogli una mano. Poi magari la situazione è diversa, però rispetto alle informazioni che abbiamo non credo che sia proprio un caso da non poter ascoltare con una certa attenzione. Altri ascoltatori da accontentare questa mattina per tornare sul tema dei mutui? Io vorrei dare un po' di tregua su questo argomento per qualche settimana. Io non credo proprio che ci riusciremo, per cui insomma mettetevi già il cuore in pace, che probabilmente, non so se la prossima settimana ma magari all'inizio di quell'altra, ancora ci ritorneremo su questo argomento, a meno che settimana prossima non si muova l'Agenzia delle Entrate, Maximilian, e allora vi tengo già allertati anche per questo, per chiarire poi eventualmente gli aspetti che sarà necessario chiarire grazie quel provvedimento. Gianni dalla provincia di Lucca, benvenuto. 800 24 00 24 per i vostri interventi. Gianni, tra l'altro, prima di sentirla voglio ricordare ancora che mi piacerebbe che ci scriveste, anche se non lo volete fare al 349 238 6666, fatelo all'indirizzo di posta elettronica di Salvadanaio. Vorremmo sentire la vostra opinione, non riguarda i mutui, su negozi aperti la domenica, sì o no? È un'idea che vi piace? Per quale motivo? Che cosa ne pensate? Solo per fare una passeggiata e curiosare, o anche perché potete, ritenete che sia anche una misura giusta per rilanciare i consumi in una fase come questa? Scriveteci, perché noi questo tema lo affrontiamo domani mattina a Soldi e dintorni alle 8:15. Gianni. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Io nel 2002 avevo stipulato un contratto di mutuo prima casa, però avevo un tasso a tasso variabile, Euribor, più uno spread. Però il primo anno era stato stipulato anche un tasso fisso di, non so se lo chiamano, preammortamento, e volevo sapere se il mio mutuo è considerato un tasso fisso, un tasso variabile o un tasso misto. Allora Gianni, la ringrazio. Che definizione diamo a questo mutuo? In realtà, Roberta Nedda, anche qui purtroppo andiamo a interpretazione, proprio perché, come dicevamo all'inizio, non c'è stato un chiarimento definitivo da parte delle entrate. Però in questo caso si tratta tecnicamente di un mutuo a tasso variabile, in cui c'è un periodo iniziale di preammortamento che alcuni istituti fanno a tasso fisso, altri a tasso variabile, però onestamente di base poi il mutuo è classificato normalmente a tasso variabile, quindi mi sentirei di dire che rientra, ovviamente torniamo a quello che dicevamo prima, che il tasso iniziale di partenza non è quello fisso iniziale, ma quello della prima rata del pagata effettivo tasso variabile. Quindi insomma speriamo poi che tutte le nostre interpretazioni di questa mattina non vengano puntualmente smentite, Maximilian. No, questo è abbastanza chiaro. Il decreto, scusate, la circolare ultima che ha detto che non si considera il periodo di preammortamento, ma la prima rata pagata dopo il periodo di preammortamento. Quanto dura questo periodo di preammortamento generalmente? Dipende dai mutui, può durare un anno, può durare anche qualche mese. Sì, a volte è un po' alla scelta del cliente, diciamo che ovviamente più è lungo più uno paga interessi, quindi non ha una particolare convenienza, per cui più di 1 o 2 anni normalmente non dura, però non c'è un limite. Molto importante, sì, una cosa che volevo aggiungere, non so se è stata sottolineata, non mi ricordo se è stata sottolineata in precedenza nella scheda, è che è per quelli che nel frattempo hanno fatto una rinegoziazione. Una rinegoziazione o una surroga, molto di passaggio veloce. Perché siccome vedo molte mail che arrivano e chiedono qual è per me il tasso che devo considerare, il tasso che bisogna considerare, a patto che sia sempre un variabile, chi ha rinegoziato ha fatto un fisso non rientra, chi è rimasto col variabile deve considerare il primo tasso dopo la rinegoziazione, per cui può capitare che uno si è fatto un mutuo che era al 3% come tasso iniziale nel 2005, ha fatto una rinegoziazione nel 2007-2008 perché ha trovato un mutuo migliore e ha pagato come prima rata il 5, e allora sarebbe sopra il limite del 4%. Il che è molto probabile, insomma, che possa essere capitato, ed è quest'ultimo, perché se l'ho fatto in quel periodo là, ed è quest'ultimo dato quello che va preso come riferimento, non il primo. Quindi in sostanza questa misura di intervento riguarda in teoria tutti coloro che avevano questo tasso a regime del mutuo sottoscritto prima del 31 ottobre 2008 sotto il 4% e che non hanno rinegoziato praticamente, diciamo, se sì, dovessimo di base, dare sì. Di base così, poi è chiaro che bisogna vedere a che condizioni è avvenuta la rinegoziazione, ma come diceva Maximilian, chi ha rinegoziato difficilmente ha spuntato un tasso inferiore al 4 se lo ha mantenuto a tasso variabile, e difficilmente ha mantenuto il tasso variabile in realtà in quest'ultimo periodo. Gianluca dalla provincia di Modena. Buongiorno, io volevo farvi due domande. Una è che io ho un mutuo stipulato nel 98 con un tasso fisso per 2 anni al 4,25, poi è partito il tasso variabile, però avevo una clausola nella stipula del mutuo che non sarei mai andato al di sotto del 4%. Eccolo là, il floor. Gianluca, ne discutevamo a microfoni spenti e così... Non dico che speravamo di non introdurre questo argomento, perché in realtà ci dà la sponda per un'altra puntata di Salvadanaio, però ci dà modo appunto in realtà molto volentieri di commentare anche questa casistica. Gianluca, quanto dura il suo mutuo? Com'è? Quant'è la durata del suo mutuo? 15 anni. Meno male. Sì, tra l'altro io adesso pago un tasso di interesse che è al 5,7%. È già 4 mesi che pago questo 5-7. Volevo un consiglio anche da voi, come volevo comportarmi con la banca. Allora aspetti un po' lì, Gianluca, perché lì ci sono un po' di aspetti da considerare. Aspetti lì, che magari se i nostri ospiti hanno bisogno le chiedono ulteriori delucidazioni. Chi vuole intervenire, alzi allora, la mano. Maximilian, aspetti. Prima di tutto, lei paga il 5,7%. Sì, è possibile, perché lo ripetiamo già da diverse trasmissioni e sono molti che ce lo chiedono. Il meccanismo di indicizzazione all'Euribor è ritardato. È possibile che lei stia pagando una rata che si riferisce a un Euribor di ottobre, novembre o dicembre, quando l'Euribor era ancora molto elevato. Il calo lo vedrà nei mesi prossimi, seguenti, insomma, e controlli il contratto, perché sul contratto c'è scritto a quale Euribor si fa riferimento e a quale ambito temporale si fa riferimento. Per quanto riguarda il floor, il quello che noi chiamiamo il pavimento, del cap, che è la esiste, protezione verso ci l'alto. Sono dei mutui particolari che prevedono un tetto a rialzo, un cap, e dei mutui che prevedono un cosiddetto floor, cioè un pavimento oltre il quale, al di sotto del quale non si può andare. E ci sono dei mutui che prevedono anche entrambi, e questo è uno dei problemi che molti stanno riscontrando. Anche qui vedo molte mail che arrivano a Mutui 24, che è lo speciale del Sole 24 Ore, arrivano molte mail e sottolineano perché non mi sta scendendo, visto che c'è una clausola. Quella purtroppo è una clausola che Gianluca nel 98 ha firmato. Molti chiedono: è legale? Certo che è legale, certo, se l'avete firmata è legale, e probabilmente grazie a quel ribasso siete riusciti a quella clausola al ribasso che non vi permette di andare mutuo più basso di un certo livello, siete riusciti a suo tempo a fare a spuntare delle condizioni migliori. Stiamo chiudendo, Roberto Anedda, le ultime raccomandazioni sul tema di cui abbiamo parlato stamattina. Tra l'altro ti leggo anche un messaggio: ho chiesto un fisso e 15 giorni di arrogito, mi comunicano che alle condizioni discusse i tassi possono farmi solamente il variabile. La banca è quella che abbiamo citato prima, quindi concludiamo un po', tiriamo le fila della trasmissione di oggi. Sì, per quanto riguarda coloro che aspettano un qualche rimborso, diciamo che innanzitutto fortunatamente grazie al calo dei tassi si tratterà nella stragrande maggioranza dei casi di rimborsi molto contenuti, magari solo per i primi mesi dell'anno. Purtroppo ci sono, come abbiamo riscontrato, tutta una serie di incertezze che ancora permangono e per le quali dovremo inevitabilmente darci ulteriori appuntamenti, perché come abbiamo riscontrato più volte anche presso le banche non ci sono grandi informazioni, ogni banca a volte si muove un po' e gli impiegati brancolano nel buio anche per proprio iniziativa. Quindi sicuramente sia delle circolari più esaustive e chiare, sia anche magari da parte delle varie banche delle direttive, delle circolari con raccomandazione che vengano lette da tutte le filiali, sono auspicabili. Quindi, per evitare inevitabili incertezze sulle quali torneremo nelle prossime puntate. Grazie a Roberto Anedda, Maximilian Cellino, torniamo domani, buona giornata.